Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buon pomeriggio, bentrovati. Luca Tremolada al microfono. Insomma, le trattative a Copenaghen entrano nel vivo. Il summit del clima ora finalmente può ragionare su alcuni numeri. Noi siamo in collegamento con Gigi Donelli a Copenaghen. Buongiorno. Buongiorno Luca, però, ascoltatori. Ecco, come abbiamo sentito nel giornale radio, finalmente cominciano a trapelare i primi numeri, insomma si sta lavorando a una bozza, però volevamo provare a approfondire il tema dei trasporti, in particolare dell'auto. Oggi la puntata è dedicata all'auto elettrica, cerchiamo un po' di capire quelle che sono le principali novità del settore. Gigi, cosa sta succedendo a Copenaghen da questo punto di vista? Che ricordiamo, sì, tra l'altro, posso dire che ho un contributo, visto che continuiamo sui numeri, che oggi per la prima volta ho sfrecciato a 110 all'ora su un tratto, appunto la Vestengade, cioè un tratto autorizzato, quindi nei limiti di velocità, ma con un'auto elettrica, cosa che non mi era mai accaduto prima. Quindi ho provato una automobile di produzione norvegese, concetto che mi hanno spiegato è stato sviluppato da tedeschi e norvegesi, elettrica, una automobile che rientra, diciamo, in questo grande progetto che la città di Copenaghen ha messo in cantiere per diventare una città a emissioni zero entro il 2020. Chiaramente sono molti i punti, non solo le auto e i trasporti, ma insomma è stato interessante anche provare questo mezzo. Ecco, tra l'altro, qual è stata l'impressione? Tra l'altro, Copenaghen, ricordiamola, è forse la città che dal punto di vista delle emissioni è la prima in classifica, insomma sono quelli più verdi, quelli più bravi. Ecco, guidare un'auto elettrica a Copenaghen credo che sia qualcosa di qualitativamente diverso rispetto a Milano, per esempio. Beh sì, leggermente diverso, bisogna anche dire che Copenaghen è chiaramente una città di mare, una città di vento, per cui insomma gran parte della o comunque una parte cospicua della sua energia arriva dai campi eolici che, di cui abbiamo anche parlato appena fuori dalla città, offshore e onshore, ma c'è anche il fatto che il riscaldamento è stato trasformato da circa 20 anni, Copenaghen sostanzialmente brucia i suoi rifiuti, una grossa parte dei suoi rifiuti. Insomma è una città che ha fatto delle scelte precise. Sull'automobile, quello che capita spesso in questi paesi del nord è che la comunità, lo Stato, l'amministrazione locale sostanzialmente manda un messaggio piuttosto chiaro: fate quello che volete, ma sappiate che vi può costare carissimo. Cosa vuol dire? Parcheggiare in città è caro, le tasse sulle automobili diciamo classiche sono molto molto alte, viceversa se aderite a dei progetti a basso impatto energetico facciamo di tutto per rendervi le cose più semplici. Ecco, ma a che velocità sei andato con l'auto elettrica? Ben 110 all'ora, posso dirlo, e devo dire senza che... rumore, immagino, silenziosa come... Beh, allora, silenziosa chiaramente nella sua fase accensione bassa velocità, assolutamente silenziosa. In realtà verso gli 80 all'ora ho cominciato a sentire un sibilo, una sorta di rumore di turbina, di cacciabombardiere. Infatti ho fatto un sorriso con il collaudatore che era al mio fianco, perché ho detto: cos'è questo rumore? Mi ha detto: fa parte dei rumori che non siamo abituati a sentire. Una macchina in questo caso che ha un'autonomia di 220 km, ovviamente ci sono anche i lati, quelli che ci piacciono meno, cioè 12 ore per ricaricarla, costi più alti. In questo caso a Copenaghen fanno appunto un progetto di car sharing, cioè ti iscrivi a questa rete e partecipi con delle quote ore all'utilizzo dell'automobile. Quanto costa? Beh, allora, sostanzialmente per un weekend, per averla full time, perché costa $20 all'ora, l'equivalente di $20. Per un weekend ti fanno un forfait di €100. Quello che su cui insistono molto è la possibilità di utilizzarla per gli acquisti, per fare shopping. Di qui di nuovo il discorso della città. Un'ora di parcheggio diciamo a Copenaghen costa in media €4. Tutti i parcheggi per le automobili elettriche il parcheggio è completamente gratuito. Insomma, sostegno anche incentivi e sostegno, quindi. Esatto. Grazie Gigi Donelli. Un saluto a Copenaghen. Ecco, e noi torniamo in studio perché insomma ci hanno appena raccontato l'esperienza. Loro sono talmente avanti a Copenaghen che sono già sul car sharing ecologico. Noi facciamo un passo indietro e salutiamo Paolo Lanzoni di Mercedes, perché insomma buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco, perché insomma il tema è che mentre insomma là sembra già una piccola realtà, ricordiamo subito che l'auto elettrica, secondo le previsioni, rappresenterà, se tutto va bene, nel 2020 il 30% del mercato. Insomma, non dipingiamo uno scenario dove intere città, se non autostrade, andranno, vedranno la presenza di queste nuove macchine. Però insomma l'annuncio riguarda una Smart per già il 2000, per il 2010, se non sbaglio. Sì, assolutamente sì, grazie al progetto e-Mobility Italy che Smart, Daimler insieme al partner Enel, perché noi riteniamo sia fondamentale che tutto il sistema si dedichi alla mobilità elettrica, e quindi per aver successo nella mobilità urbana elettrica una vettura deve avere anche l'infrastruttura, poi magari possiamo anche approfondire questo tema, ma grazie al progetto e-Mobility Italy 100 italiani fin dalla prossima primavera, quindi a partire dalla prossima primavera, potranno guidare in elettrico a Roma, Milano e Pisa. E le iscrizioni sono già partite e siamo anche molto molto sorpresi e soddisfatti, insomma, perché c'è grande sensibilità. Considerate che in poco più di 10 giorni di apertura del sito www.mobilityitaly.it già 1500 italiani si sono candidati per guidare elettrico. Giustamente in tempo reale Matteo da Milano mi dice sì, ma i tempi di ricarica? Allora, i tempi di ricarica della Smart elettrica, per ricaricare la ricarica completa è 135 km, per ricaricare la ricarica completa bastano 6 ore, però consideriamo che mediamente noi siamo convinti che la mobilità urbana 100% elettrico prenderà piede nelle città, e quindi mediamente in città non si fanno più di 50 km al giorno, e per ricaricare 50 km basteranno solo 2 ore. Quindi è un tempo assolutamente compatibile. Io stavo ragionando anche sulle grandi città, per cui l'Interland, per cui insomma Roma, fuori dal grande raccordo, insomma lì ci si sta dentro con questi. Assolutamente sì, perché 135 km è l'autonomia totale. Poi Enel garantirà a partire dalla prossima primavera almeno 400 punti di ricarica privati e pubblici, che in un primo momento ovviamente saranno fatti su misura su questi primi 100 italiani, ma noi siamo convinti appunto che grazie alla tecnologia delle batterie agli ioni di litio, che sono un po' le batterie dei nostri telefonini, che non hanno più l'effetto memoria, le vetture potranno anche essere ricaricate per un breve tempo e poi utilizzate, e per questo motivo appunto anche con 2 ore di ricarica si ha di nuovo un'autonomia di altri 50 km. Ecco, senta Lanzoni, su che cosa verterà il confronto con le altre case? Sappiamo che la Mitsubishi sta lavorando in questa direzione, insomma è immaginabile che un po' a breve tutti quanti i produttori o quasi sforneranno la loro city car elettrica. Quali saranno i parametri di scelta per il consumatore, ossia l'automobilista come le potrà giudicare? Perché sulle macchine tradizionali insomma già qualche parametro lo abbiamo, ma sulle macchine elettriche? Ah, innanzitutto c'è da dire che sicuramente varie case stanno lavorando sull'elettrico. Dal nostro punto di vista l'elettrico 100% avrà un senso anche nel breve termine per la mobilità nelle città. Questo intanto è già un primo termine di paragone. Poi sicuramente dovremmo andare a vedere altre variabili, altre caratteristiche della vettura. Dal nostro punto di vista le vetture elettriche devono rimanere belle, perché una vettura si continua a scegliere con il cuore anche in un momento di crisi e deve far emozionare, quindi non devono essere diverse dalle altre vetture che siamo abituati a vedere nei panorami urbani, devono essere evidentemente ecologiche, quindi 100%, ad esempio la Smart è garantito 100% di CO2 free. Perché? Perché Enel si è impegnata a utilizzare energia REX, certificata REX, quindi proveniente da fonti cosiddette rinnovabili per alimentare queste vetture, e dall'altro lato devono essere anche economiche, sostenibili economicamente. Evidentemente queste prime 100 vetture noi le proponiamo a 400 euro più IVA al mese, e con una forma di possesso, di noleggio a lungo termine, un canone che comunque comprende tutto, quindi la manutenzione per 4 anni. Sì. Devo dire che Giustissimo, resta il tema delle code dal distributore. Questo effettivamente è un nodo che non è ancora sciolto. Cioè, adesso ragioniamo su piccoli numeri, ma nel momento in cui ci saranno 4-5 macchine in attesa, 2 ore, comincia ad essere un tempo importante. Guardi, le rispondo subito. Superata questa fase pilota, appunto, questa fase pilota, quando il mercato dell'auto elettrica, insomma, si svilupperà, sicuramente grazie al contributo anche di Enel a livello europeo, si sta studiando la possibilità e la fattibilità tecnica di poter collegare la vettura ad una qualunque presa. Futuro saranno trifasi e la rete leggerà il proprietario della vettura e caricherà l'energia in automatico sulla bolletta di casa. Ma questo è il futuro dell'auto elettrica. Consideri che anche da recenti convegni in occasione del Motor Show di Bologna, anche i dealer, esatto, i concessionari ci dicono... La fermo un attimo, sì, perché è proprio il Motor Show di Bologna. Prima abbiamo parlato, insomma, dei parametri dell'automobilista per giudicare queste nuove auto. Noi abbiamo in studio Andrea Franceschi, che è appunto stato al Motor Show. Io volevo chiedere che... Buongiorno Andrea. Sì, buongiorno. Ecco, tu sei un appassionato di auto quanto me, nel senso non è che siamo specializzati, però insomma, qual è il tuo feeling, cioè che cosa hai visto al Motor Show, a quali marche si avvicinavano, anzi quale marca, che tipo di auto si avvicinava al pubblico, c'è una sorta di interesse verso l'auto elettrica oppure l'automobilista vero, quello che ama il rombo del motore, insomma preferisce la macchina quella che fa brum, ecco. Ma innanzitutto bisogna dire che questa edizione del 2009 è stata molto molto ristretta per il Motor Show, anche perché per l'assenza delle grosse case automobilistiche. Gioco forza, le grosse novità sono state appunto quelle che si vedevano nel padiglione ecologia, per cui c'è una tipologia di diciamo curioso che è andato a vedere le vedevo tante famiglie, ti dirò la verità. Il risparmio, sì, quindi sì. La chiave può essere quella, sì, del risparmio. Esatto. Se l'automobilista, il fanatico dei motori, non l'ho visto tanto interessato. Poi, ovviamente, per quello che posso aver visto io, comunque, ho visto un grande interesse di persone comuni, anche giovani. Una delle novità sicuramente più curiose è stata questa. La Tazzari Zero, che è questa automobile prodotta in Italia, totalmente made in Italy, che è appunto una city car totalmente elettrica prodotta da questa azienda di Imola, che è un'azienda metalmeccanica, ha deciso di lanciarsi su questo l'unica, non sarà l'unica. Tra l'altro ricordo il numero verde, oggi sono moltissimi gli ospiti in attesa di parlare, tanto diamo il numero 824 00 24, sul fronte SMS che già stanno arrivando, 349 238 6666. Io sono anche in collegamento con Maria Terbo Pililli, buongiorno, che è direttrice di EcoCar e collaboratrice di Motori 24, il canale online del Sole 24 Ore. Buongiorno. Buongiorno da Marina Terpolilli. L'ho detto male, lo sapevo che l'avrei pronunciato male. Sono quei nomi che sono che a me. No problem. Sono fatto così. Allora, il tema è anche voi chiaramente avete provato, anche lei ha provato le auto elettriche. Ci racconta, insomma, con l'occhio della, insomma, un po' specialistico, insomma, della persona che le macchine le sa giudicare. Quali sono le differenze, quali sono invece le cose più importanti che emergono nel guidare, nel piacere della guida di una macchina elettrica? Noi abbiamo avuto occasione come EcoCar di provare sia la Mitsubishi Miev e sia la Tesla, famosissima perché è una roadster sportiva e quindi praticamente all'antitesi dell'auto elettrica come può essere concepita normalmente. E la prima cosa che emerge guidando queste vetture è che bisogna cambiare un po' la mentalità, nel senso che siccome sono dotate di sistemi di recupero di energia che aiutano ad alimentare la batteria, c'è necessità per quanto concerne queste vetture di avere un tipo di guida piuttosto tranquillo, evitare accelerate e frenate per ottenere la massimizzazione dell'autonomia dell'auto. In che senso evitare accelerate e frenate? Nel senso che si dovrebbe cercare di avere una guida piuttosto fluida in mezzo al traffico e non una guida nervosa come se magari si può ottenere con una qualsiasi vettura, magari diesel, che è una bellissima coppia, e quindi praticamente si dà l'accelerata, poi si arriva sotto l'altra macchina e si frena. Sarebbe più opportuno e più produttivo praticamente accelerare con gradualità e evitare di aumentare troppo la velocità quando davanti si ha magari del traffico, rallentare semplicemente togliendo quello che in gergo si dice il gas. Beh, un po' come mi viene, cioè l'immagine che mi viene alla mente è quella delle auto, delle macchine da autoscontri, cioè bisogna andare è un po' così. Ma non propriamente, insomma, poi dipende anche dalla tecnologia della vettura. Ad esempio la Tesla ha delle prestazioni veramente da sportiva pura, insomma abbiamo avuto nel nostro test abbiamo ottenuto un'accelerazione da 0 a 100 4.7 secondi, cioè pari a quella di una Ferrari, per dire. Quindi cioè, non sono macchinine ferme o da autoscontro, tutt'altro. Hanno anche una tipologia di telaio, ad esempio parlando della Tesla, il telaio è quello della Lotus Elise, è una sportiva di tutto rispetto, che ha una guidabilità altrettanto interessante sia dal punto di vista della tenuta di strada che nella soddisfazione di guida. Insomma, sono vetture che possono avere più anime, dipende ovviamente quello che si acquista o quello che si guida. La Mitsubishi Miev, ovviamente, essendo una city car cittadina, ha delle prestazioni più limitate. Ecco, fatto di... Qual è il target di questo tipo di auto? Perché insomma, quando ci sono le grandi innovazioni, di solito è anche gioco forza a schierarsi, per cui ci siamo sempre un po' divisi dipingendo dei futuri tutti elettrici oppure distruggendo l'innovazione perché non va bene, perché non fa rumore, perché non è scattante. Di fatto poi quello che si è visto, quello che si osserva guardando questi settori dall'alto, è che la mossa dell'ibrido, cioè avere entrambi i motori, è la scelta più soddisfacente. Avverrà così secondo lei anche per l'auto elettrica? Cioè il modello è la Toyota Prius, per intenderci? Sicuramente l'auto elettrica offre anche delle prestazioni di assoluta gradevolezza, ad esempio, cioè, però va a discapito della batteria, nel senso che volendo si può guidare un'auto elettrica esattamente come si guida una qualsiasi automobile attuale, accelerando senza badare troppo ai consumi, facendo delle frenate. C'è un ascoltatore cattivissimo che ci scrive il target pensionati, cioè per la serie andiamo, cioè persone tranquille, calme. Beh, è un pensionato sulla Tesla, sinceramente non lo vede. E tuttavia non vedo neanche pensionati sulla Miev, che sarà la prima vettura elettrica che arriverà sul mercato, diciamo, per il pubblico, e sarà seguita poi dalle sorelle Peugeot, Ion e la Citroen C0, che vengono tutte praticamente prodotte dalla stessa fabbrica Mitsubishi e brandizzate in maniera diversa. Sono vetture che possono essere guidate normalmente. L'unico limite, penso, potrebbe essere proprio sul fronte dell'autonomia, perché poi in realtà quello che viene dichiarato sui tempi di ricarica ancora, diciamo, non è proprio esattamente nell'uso, diciamo, quotidiano, non è proprio esattamente così. Nova Lab 24. Luca Tremola dal microfono, bentornati, buon pomeriggio. Allora, insomma, si sono scatenati sugli SMS, si sta parlando di auto elettrica, del futuro dell'automobile, c'è chi non ci sta, come Teo da Milano, che commentando le 8 ore di ricarica della Tesla dice: mi viene voglia di comprare un Hemmer, cioè una macchina che è capace di bruciare quintali di idrocarburi. Ecco, i tempi preoccupano. Io sono in collegamento con Paolo Lanzoni di Mercedes, ma un'altra cosa che preoccupa Lanzoni è anche l'idea di avere una città piena di spine per ricaricare la città. Da un punto di vista della sicurezza è complesso, sbaglio? Ma sicuramente non servirà, da quello che ci dicono i nostri primi studi, appunto riempire le città di colonnine o di punti di ricarica, proprio perché ad oggi già la tecnologia consente, ripeto, di ricaricare per la percorrenza che mediamente si percorre in una città, di ricaricare la vettura in sole 2 ore. Quindi immaginiamo in quanti luoghi pubblici o privati, il parcheggio sul posto di lavoro, il box privato, così come il garage di un centro commerciale, potrà essere disponibile una qualunque presa elettrica, quindi attaccando la vettura in un futuro. Infatti, se guardiamo anche le cifre, sicuramente è anche interessante quello dal nostro punto di vista, ma quello che è anche emerso negli ultimi convegni, come stavamo dicendo prima, è che nel 2012, ad esempio per Smart, il 10% delle vetture potrebbe essere 100% ecco, tra l'altro Renault dice che nel 2020 un'auto su 10, ma per un'auto su 10 vale l'investimento di mettere tutte le spine? Poi parliamo delle grandi città, mi immagino nei piccoli centri. Guardi, non le posso dire ovviamente rispetto ad altre stime di competitor, ma sicuramente appunto un'auto su 10 nella mobilità urbana, nell'ambito di Smart, nel 2012 questo potrebbe essere fattibile. Lei consideri che Smart in Italia, ad esempio, fino allo scorso anno, insomma, stiamo più o meno sulle 30.000 vetture all'anno medie, quindi questo significa avere 3.000 vetture in tutta Italia. Quindi sicuramente certo, questi sono i volumi nel 2012. Quindi riportiamo un po', come dice lei, il tema anche alla realtà, perché sicuramente oggi la prima strada è ottimizzare i motori a combustione interna. Il secondo punto importante è introdurre l'ibrido, quindi l'elettrico, ma a supporto come opzione, cioè in più, ecco. Assolutamente sì, per abbassare giustamente, ecco, le emissioni su... di CO2, quindi si arriverà alle emissioni zero con l'elettrico, che può essere fra l'altro alimentato da un flusso all'idrogeno. Quindi ci sarà un processo, lei vede un processo, una transizione. Io proprio su questa transizione vorrei chiamare in causa Mario Cianflone, responsabile di Motori 24. Buongiorno Cianflone. Buon pomeriggio. Ecco, il tema è che stiamo un po' facendo i conti senza l'oste, ho questa impressione, perché poi se è vero che insomma si andrà in questa direzione, abbiamo visto che ci sono molte ombre su un futuro completamente elettrico, c'è tutto un tema di riconversione dell'indotto. Cioè, tra l'altro questo è una cosa di cui si discute spesso, ma insomma, chi oggi produce i radiatori, che cosa produrrà domani? Chi oggi produce le marmitte? Cioè, un'auto elettrica non ha nessuna di queste componenti, o sbaglio? Luca, hai toccato esattamente il punto chiave. L'auto elettrica è enormemente più semplice di un'auto con una propulsione a combustione interna. Per esempio, l'auto elettrica non ha il cambio. Se fate conto che soltanto nelle due più grandi aziende che producono cambi, ZF e Getrag, lavorano circa 2.000 persone, potete immaginare che non potranno essere riconvertite tutte. L'industria dei cambi in tutto il mondo ha una forza lavoro di 400.000, un'auto elettrica non ha bisogno di pompa dell'acqua per raffreddare il motore, di servizi idraulici, di moltissimi componenti. Questo è per l'industria dell'automobile assolutamente dirompente. Chiaramente stiamo parlando di uno scenario ipotetico, nel caso in cui arrivasse una tecnologia che permetta di ricaricare un'auto elettrica in tempi molto brevi. Non dimentichiamoci che quando andiamo al distributore ci mettiamo non più di 3 minuti e ci nervosiamo, e sono anche, c'è nervosismo a fior di pelle se si passano più di 3 minuti. Stiamo parlando di vetture capaci di portare 4 persone, non di una Smart che ne porta 2 lunga 3 metri senza capacità di carico. Riportando le cose alla realtà, l'auto elettrica anche nella mobilità urbana la vedo molto in là con la tecnologia attuale. Pensate che con 250 kg di batteria vuol dire avere l'equivalente di 2,5 litri di benzina, quindi quello è già complicato, ma nell'indotto è assolutamente dirompente. Noi siamo qui a preoccuparci delle sorti di impianti come Termini Imerese, gli impianti di Opel in Germania, in Spagna, o di Vauxhall nel Regno Unito, l'auto elettrica per l'occupazione del mondo dell'automobile rischia di diventare in un ipotetico futuro davvero dirompente. Ecco, questo ragionamento va bene al netto delle politiche nazionali, perché come abbiamo sentito a inizio trasmissione, se è vero che Copenaghen, che la Danimarca sta andando verso addirittura un modello di auto elettrica in car sharing, è anche vero che ognuno poi farà anche conto con il prezzo del carburante. Cioè, e io mi vado a immaginare che in un momento in cui il petrolio sfa alle stelle, probabilmente si spingerà per facilitare, per incentivare l'auto elettrica. Per cui mi vado anche a immaginare che ci saranno nazioni a emissioni zero per una questione di bolletta economica, non né altro, non marketing, amore per l'ambiente, ma banalmente per una questione di bolletta economica, e invece nazioni che continuano a utilizzare i SUV o gli Hemmer perché intanto hanno il petrolio, la benzina a prezzi convenienti. O sbaglio? Cioè... Senz'altro questo ragionamento sensato. Probabilmente sono alcuni paesi che hanno più bisogno di una mobilità meno dipendente dal petrolio. Fermo restando il problema base della produzione dell'energia che poi comunque va prodotta. Dubito che se si arriverà al 30% di vetture con una propulsione elettrica possa essere sufficiente per un paese grande una produzione completamente da fonti rinnovabili, perché ci vogliono centrali con capacità massiva per alimentare soprattutto in tempi brevi un parco auto molto ampio. Ecco, tra l'altro Mario, tu stai provando MP3, lo scooter della Piaggio ibrido. Sì, esattamente. Scriverai la recensione su Nova 24 di giovedì prossimo. Ci dai un'anticipazione, insomma, com'è? Beh, è sicuramente una macchina digitale, tra virgolette, molto molto interessante. È un oggetto in grado di muoversi in ogni ambito urbano, anche nelle ZTL, con una mobilità elettrica limitata fino a 30 km orari, che basta e avanza per muoversi in quest'area, e ha questo motore elettrico che a bassa velocità permette, va in soccorso di quello termico e complessivamente riesce a fare qualcosa come 60 km con un litro. Non è un mezzo emozionale divertente, ma è una grossa innovazione, è un'innovazione italiana, sì, anche per il telaio, perché questo è un tre ruote derivato dall'MP3, quello che quindi non fa le penne per intenderci. Non fa le penne, però va giù in piega come nessuno scooter. Ah, attenzione, va in piega? Cioè, questa... Va in piega, gli scooter MP3 della Piaggio hanno un avantreno, provate il termine tecnico, che permette tramite un quadrilatero, certo, basculante di scendere, quindi è molto più sicuro. Ovviamente le leggi della fisica non sono controvertibili, no, si cade comunque, certo, però si cade meno, non si cade sulle rotaie del tram. La scelta di Piaggio è di proporre la versione ibrida con un motore molto piccolo, 125. Ecco, ma la chiave è adolescente o quarantenne giovanile? Cioè, un prodotto di questo tipo, ibrido, che non costerà neanche poco, immagino. Cioè, a chi è rivolto? 6.000, insomma. Ecco, non è rivolto al ragazzino, cioè non è che ci possiamo immaginare un ragazzino molto ricco, quello antipatico, fuori dal liceo con il motorino ibrido, altrimenti è un prodotto, diciamo, un po' da radical chic, mi viene da dire, o sbaglio? No, è un prodotto da automobilista pentito, oppure da scooterista che vuole, non è interessato alle prestazioni degli scooter medi o di fascia alta, che in ambito urbano in effetti non servono, oppure l'automobilista pentito che ha necessità di muoversi in città congestionate spendendo di carburante il meno possibile, che magari deve entrare nelle ZTL, e questo oggetto entra nelle ZTL come se fosse un'auto una bicicletta elettrica. Per contro ha un peso elevatissimo, pesa come un Harley Davidson, però sì, cammina. Nella parte diciamo verde abbiamo una battuta, che rumore ha? Cioè, allora, quando si passa dalla benzina alla parte ibrida, cioè insomma. è assolutamente silenzioso, perché, anche perché poi essendo un mezzo all'aperto, un'automobile, non sentiamo neanche il molto presente rumore di rotolamento dei pneumatici, quindi è estremamente silenzioso e quasi sconcertante. Si gira la manopola del gas e lentamente avanza, ma con estrema silenziosità. Grazie. C'è anche un pulsante di cortesia per far sentire il passaggio. Ah, beh, però così almeno non si rischiano incidenti. Grazie Cianflone, io ringrazio tutti i nostri ospiti. Nova Lab 24. Nova Lab 24. Google contro la deforestazione. Il motore di ricerca ha lanciato un servizio che consente agli scienziati e agli ambientalisti di controllare attraverso internet l'evoluzione della deforestazione nel mondo. La tecnologia consente di individuare, nel giro di pochi secondi, quali foreste siano sul punto di essere aggredite e quindi di frenare, facendo ricorso alle leggi locali, gli abbattimenti indiscriminati di alberi. L'iniziativa è buonista. Brin e Page, i fondatori di Google, cavalcano da par loro la Green Revolution. La principessa combatte a fianco di Link. Era ora. Esce oggi in tutta Europa un titolo molto atteso tra i videogiochi, The Legend of Zelda: Spirit Tracks, per Nintendo DS e DSi. Per la prima volta nei 23 anni di storia della serie The Legend of Zelda, la principessa Zelda si lascerà alle spalle le grinfie dei malvagi dell'oscurità e affiancherà Link nell'avventura. Più liberi su Facebook? Come annunciato, ecco le nuove regole per il controllo della privacy sul social network più popolare del mondo. Il Publisher Privacy Control di Facebook consentirà infatti agli utenti di scegliere l'impostazione di privacy per ogni post nel momento in cui viene creato. Ogni utente potrà condividere con tutti il proprio parere su un nuovo film, ad esempio, ma solo con una comunità più ristretta, il suo nuovo numero di telefono cellulare o le foto dei figli. Resta però una domanda: a cosa, o meglio a chi, serviranno i dati sui nostri profili? E infine, ora Twitter parla italiano. L'interfaccia è localizzata, ma era proprio necessario? Bentornati, io sono in studio con Andrea Franceschi del Sole 24 Ore Online. Leggo un sms di Riccardo da Roma: stanno creando un nuovo bisogno per i consumatori, così spilleranno altri soldi, riferito chiaramente a tutto il business dell'auto elettrica. Io non credo, tra l'altro io faccio molto fatica perché vado in bici e eccetera, però è un dato di fatto che ci stiamo affrontando un cambiamento epocale. Sicuramente l'industria dell'auto, così oggi come la vediamo, cambierà nel giro di 10-20 anni. Capire che profilo avrà, se farà rumore, se non farà rumore, se ci saranno i clacson, se non ci saranno, sarà un po' una sfida. Tra l'altro tu mi dicevi che anche hai visto un rapporto sull'aspetto del rombo. Sì, è uno studio americano che è uscito qualche mese fa che appunto metteva appunto risalto il problema pericolosità per il pedone, già, è vero, per delle auto elettriche. Non so se ti è mai capitato, a me è capitato una volta di non diciamo rischiare di essere investito, però quasi, da un taxi Prius nel centro di Milano, perché non mi sono veramente accorto che stava passando. Infatti, talmente hai silenzioso. Hai sentito che lo scooter della Piaggio ha un bottone che si schiaccia, insomma, per segnalare la propria presenza. Io mi immagino di notte, cioè lì sarà tutto un saettare. È un'altra città, tra l'altro. Sarebbe anche interessante capire come saranno queste città, se mai ci saranno, completamente di veicoli elettrici. Io non credo che si andrà verso questo. È fantascienza immaginarsi città completamente ad emissioni zero, però se il petrolio finisce noi non lo vedremo, questo è poco mai sicuro. Questo è poco mai sicuro. Però di fatto, ecco, la chiave è anche il racconto, cioè come verrà raccontata questa nuova industria dell'auto, cioè come verremo anche in un certo senso condizionati. Chi andrà sull'auto, sulla benzina, sarà il cattivo, sarà il buono. Insomma, bisogna stare un po' tempi a essere anche un po' manipolati. Il nostro tempo è finito, noi però ci ritroviamo lunedì alle 4. Un saluto a De Franceschi. Buongiorno. Salve, buongiorno.